Davide, come sta? Me lo hai mai chiesto? Chiama un'ambulanza, frate, fai presto, che il sogno che avevo non è mai questo. Mi sa lo sai il resto, yeah. Che ti scrivo pure oggi, mi chiedo dove t'appoggi. Che fai dopo esci con me, così giriamo come gli orologi. Un po' come quando non c'erano i soldi. E vivere così non era un obbligo. Non ci sono nodi nel mio pettine, ma c'ho il nome su qualche proiettile. Non ho la disciplina che ci metti te, se per me la mattina qua sono le 23. Faccio la borsa, 20 magliette, poi le cartine, le sigarette. Tanto qualcosa la scordo sempre. Ne ho una già girata da accendere. Tu ricordati e vienimi a prendere. E vienimi a prendere in mezzo alla polvere. Ricordi non c'erano soldi, c'eravamo io e te. I sogni più grossi dentro, nuvole tossiche. In fondo ci ho visto qualcosa, pensavo che fossi te. E vienimi a prendere in mezzo alla polvere. Ricordi non c'erano soldi, c'eravamo io e te. I sogni più grossi dentro, nuvole tossiche. In fondo ci ho visto qualcosa, pensavo che fossi te. Pensavo che fossi te. Non sconfiggi la vita, l'ho imparato col tempo. Se la capisci, può farti contento. La prendo per mano e balliamo un lento. In una stanza senza il pavimento, scusa, è così che mi sento. Sono una specie di esperimento, aspetto due ore e ritento. Ma tanto c'ha sempre il telefono spento. La legge di Murphy, la pelle coi graffi. In camera con le emozioni che mi prendono a schiaffi. Ci sa che non ne parlo, perché c'ho il cuore che è la pista di Monte Carlo. Fumo questo missile che riuscirebbe a bucare il marmo. È il mio segreto per stare calmo, baby. Torno a casa la notte, ma so che non ho sonno. Il letto mi inghiotte, lo sa che non dormo. Fossi in un film, sarebbe un filmone. E quelli finiscono sempre con un morto. E vienimi a prendere in mezzo alla polvere. Ricordi non c'erano soldi, c'eravamo io e te. I sogni più grossi dentro, nuvole tossiche. In fondo ci ho visto qualcosa, pensavo che fossi te. E vienimi a prendere in mezzo alla polvere. Ricordi non c'erano soldi, c'eravamo io e te. I sogni più grossi dentro, nuvole tossiche. In fondo ci ho visto qualcosa, pensavo che fossi.